La pistola Chinatown, Copacabana in carcere, disse: ora la piazza di Forcella è il vostro secondo round. E lui era cenere alla cenere. Copacabana pagò il funerale del fottuto Alvaro. Solo sua madre, una prostituta rumena, gli parteciparono. La golva per la pistola, il dismesso quartiere Gianturco, 600 euro della colla. E quel sorco di Anne ci vendette una sorta di colpo. Poi la lite con Annan e la quasi sparatoria. Quella cote era davvero una brutta storia. Un filo e ferro fantoccio da storciare il naso, man. Poi ritorna a casa. Non stavo con nessuno, da già dire. Mio padre sta cosa non l'aveva mica capita. Mio fratello che faceva il gioco della guerra e guardava la pistola come un vero soldatino, ma non sapeva che quella che aveva era per la morte vera. La maneggiava come un bambino. La pistola a Chinatown, Copacabana in carcere, disse: ora la piazza di Forcella è il vostro secondo round. E lui era cenere alla cenere. Copacabana pagò il funerale del fottuto Alvaro. Solo sua madre, una prostituta rumena, vi parteciparono. La golla per la pistola, il quartiere dismesso Gianturco, 600 euro per la colla. E quel sorco di Anna ci vendette una sorta di colto. Poi la lite con Nan e la quasi sparatoria. Quella colta era davvero una brutta storia. Un filo e ferro fantoccio da storciare il naso, man. Poi ritorno a casa. Non stavo con nessuno, da già dito. Mio padre sta cosa non l'aveva mica capita. Mio fratello che faceva il gioco della guerra, ma non sapeva che quella era per la morte vera. E la maneggiava come un bambino. E la maneggiava come un bambino. Mio fratello che faceva il gioco della guerra e guardava la pistola come un vero soldatino, ma non sapeva che aveva tra le mani una morte vera e la maneggiava come un bambino. E la maneggiava come un bambino. Che dici, domani posso scendere in guerra con te? Nicolas rispose: mo vediamo, mo vediamo, mo vediamo, mo vediamo.